Ma in realtà non sappiamo neanche se li portano lì, cioè si era parlato anche di San Benedetto. Le notizie sono molto confuse, cioè l'unico dato certo è che sono sbarcati tutti dalla nave, che sono stati portati via su un autobus, dove è ancora incerto. Però la voce più accreditata è da San Benedetto. Sono andati via da Porto Empedocle circa 20 minuti fa. A parte la prima visita sulla nave di inizio mese, non siamo più tornati e ieri ci abbiamo provato, nel senso che eravamo già in mare per raggiungere la Capanamur con un medico e due psichiatri, perché l'equipaggio ci aveva richiesto un appoggio proprio per il supporto psicologico dei ragazzi, però a metà strada abbiamo saputo che l'equipaggio aveva deciso di forzare il blocco, di entrare in Porto Empedocle, e quindi siamo ritornati indietro. Sì, siamo rimasti tutta la giornata di ieri e abbiamo anche provato a raggiungere la nave con i due psichiatri e il medico di base. Abbiamo anche fatto richiesta al questore di Agrigento di essere autorizzati, ma abbiamo offerto la nostra disponibilità, ma non c'è. Come dire, non siamo stati autorizzati ad entrare, qui siamo rimasti nel porto per tutta la giornata di ieri. Dato certo è che la nave è stata una giornata a un miglio dalla costa, a vista, insomma, e sarò entrata soltanto questa mattina intorno alle 11. Questo è un caso assolutamente eccezionale, non previsto dalla normativa internazionale sul diritto d'asilo, in particolare dalla Convenzione di Dublino sullo stato competente per accogliere le richieste di asilo. Cioè, il problema è che queste persone hanno fatto richiesta d'asilo su una nave tedesca, però di fatto sono attraccati sul territorio italiano. Quindi in realtà è un caso non previsto e non è previsto da nessuna parte, ripeto, se debba essere l'Italia o la Germania ad accogliere ed esaminare le richieste d'asilo. Quindi penso che su questo ci saranno, come dire, sviluppi nei prossimi giorni, ma attualmente la situazione non è assolutamente chiara. Se alla fine sarà l'Italia ad accogliere le richieste d'asilo di queste persone, queste persone seguiranno l'iter normale di tutti i richiedenti asilo in Italia, quindi centro di identificazione, gli verrà rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta d'asilo e poi seguiranno tutto l'iter previsto. Prima che però venga deciso quale sia lo stato competente a esaminare la richiesta d'asilo, in realtà lo status giuridico di queste persone rimane assolutamente indefinito, perché è evidente che non saranno considerati clandestini, in attesa di sapere se l'Italia o la Germania accoglieranno le loro richieste d'asilo. Quindi attualmente si trovano in un limbo giuridico assoluto.